Non so se avete mai chiesto scusa a qualcuno per qualcosa anche piccola che avete o non avete combinato molti anni prima. Secondo me però è una bella cosa e andrebbe fatta anche a distanza di anni, anche oggi. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e io sono qui. Secondo me il problema della Chiabotto quando fa la pubblicità non è tanto che è bella, è che non si capisce niente di quello che dice. C'ha tutti gli accenti sballati. Sarà perché forse è... lei è di Torino, no? È comunque di una parte profonda del Piemonte. E lì è un po' come... lo dico perché sono piemontese ovviamente, quindi so di cosa sto parlando. Gli accenti sono un pochettino tutti sballati. Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 22 settembre. A Milano c'è una giornata meravigliosa nonostante sia il primo giorno d'autunno. O il secondo giorno d'autunno. È il secondo, dice Vittorio Mussini e anche Alessandro Marco Tulli. Noi stiamo continuando la nostra lista insieme ad Alessandro Marco Tulli delle cose che detesto e lo dico. Oggi non avevamo una, ma sicuramente domani ce l'avremo e la manderemo anche grazie a Paolino Corleoni. Sta succedendo qualcosa, però, in generale, è una cosa che io non mi aspettavo e che ha a che fare con il fatto che io dico sempre la verità e che lo racconto. Questa cosa, per definirla con le parole di un'ascoltatrice che mi ha scritto, no, scusatemi, per definire con le parole di una ragazza che mi ha scritto, perché ascoltatrice è una roba orribile, si chiama Onestà Contagiosa. Vi leggo la sua lettera, la sua mail. Ciao Matteo, oggi condizionata dalla tua contagiosa idea di onestà tout court, ho confessato una piccola verità in merito a ciò che penso ad un sindacalista con notevole potere contrattuale all'interno del mio luogo di lavoro. Parentesi, nonché mio ex, ma questa è un'altra storia. Mica tanto, è un'altra storia, probabilmente. Risultato: le relazioni umane e sindacali interrotte sine die. Sei certo che la verità non implichi conseguenze irreparabili sui luoghi di lavoro? Non oso immaginare cosa succederebbe se rivelassi tutta la verità su quanto realmente penso riguardo il soggetto di qui sopra e sui suoi sodali, nonché sui miei colleghi. Creerei un'associazione di licenziati per eccesso di verità. Io sono qui, chiocciolaradio24.it, ma anche Matteo Caccia, io sono qui sul profilo Facebook. Perché questa dell'onestà contagiosa effettivamente è una cosa che può avere un suo interesse. Così come quest'altra invece che ho trovato perché lei me l'ha detto, me l'ha caricato su Facebook. Maddalena è un'ascoltatrice, anche lei, e dai, è questa ascoltatrice. Insomma, è una ragazza che ascolta il programma da tempo, anche dall'anno scorso. Ci siamo anche conosciuti a Riva del Garda, mi pare, e anche al Salone del Libro di Torino. Maddi, come si fa chiamare, ha un blog che si chiama Il Pane e le Rose. E ha pubblicato su questo blog una lista, che è la lista delle sue verità. Io ve la leggo, perché c'è qualcosa di interessante anche qui. C'abbiamo una base? No, perché non l'avevamo decisa. Qui facciamo così, facciamo ripartire questa, Paolino. Ragazzi, Paolino è sul pezzo. Numero 1. Non mi chiamo Maddalena, ma Maria Maddalena. 2. Il penultimo anno di liceo sono stata bocciata. 3. I miei genitori sono divorziati e hanno un pessimo rapporto. Anzi, non hanno alcun rapporto. 4. Ho tradito il mio ex ragazzo. 5. Fumo più di quanto mia mamma creda. 6. Forse volevo fare un'altra facoltà, ma la verità è che non mi è mai piaciuto studiare. 7. Spesso piango senza una ragione. 8. Non bevo tè, caffè e coca perché sono paranoiata. 9. Quando faccio i sudoku butto quasi sempre un occhio alle soluzioni. 10. Spesso ho cattivi pensieri sulle persone. 11. Odio il profumo che la mia vicina di casa lascia sulle scale quando passa. 12. Non sono credente, sono sperante. 13. Non sopporto il modo di guidare di mia mamma. 14. Nella famiglia allargata di mio papà un po' mi sento a disagio. 15. Ho rotto un vasetto a casa di mia nonna e ho fatto sparire ogni pezzo. 16. Non metto niente che abbia i bottoni. 17. Quando io sono a casa e il mio ragazzo è fuori a divertirsi mi rode. 18. Mi manca la mia indipendenza. 19. Forse non vi ho detto tutta la verità. 800240024 349 238 6666. Oggi non si parla di questo, però se avete voglia di parlarne, comunque c'è appunto un profilo Facebook e c'è anche un indirizzo mail, che io sono qui @radio24.it. E devo dire che ho sentito Maddi dopo che ha stilato questa lista e la sensazione era che stesse un pochettino meglio. Io continuo a vivere da Simona, credo di essere veramente un peso ormai, e infatti ho in mente di andarmene da lì. Ieri sera però, quando sono andato a casa, Simona è una di quelle a cui piacciono moltissimo le serie TV americane. Avete presente quelli che si fissano con una roba e stanno magari tutto il fine settimana a vedersi 15 puntate di Lost? Ecco, lei appartiene a quella categoria e in questo periodo c'ha il trip per una fiction, direi, che si chiama My Name is Earl. Ed effettivamente questa fiction c'ha qualcosa, il protagonista sembra un folle scriteriato a metà tra l'ubriaco e il barbone, che ha semplicemente è stato investito da un'automobile, ha rischiato di morire, si alza, sta bene e capisce che deve come attuare una sorta di redenzione. È come se dovesse fare in modo di recuperare tutte le pecche che ha fatto perché ha ricevuto questo dono di essere sopravvissuto. E quindi cosa fa? Stila una lista. Tra questa lista di cose che deve fare, ci sono tra le altre un sacco di persone a cui deve chiedere scusa. Il caso di ieri, cioè della puntata che lei mi ha fatto vedere, era il caso in cui lui va da un suo compagno di classe, che lui ha preso in giro terribilmente perché era omosessuale, e lo deve cercare per chiedergli scusa. Quindi cosa fa? Lo cerca, quando lo trova, questo è terrorizzato perché ha di lui un'opinione, l'opinione che aveva di quando era bambino, cioè che non lo riempisse altro che di mazzate, e decide che deve fare in modo non solo di chiedergli scusa, di fare in modo di farlo sentire meglio. Insomma, ne esce un delirio. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere, che non è male. Si chiama My Name is Earl. Si trova, non so se lo trasmettono ancora in TV, però si trova chiaramente nei negozi e su internet. 800 24 00 24 349 238 6666, perché a me è partito questo trip ieri guardando questa puntata di My Name is Earl, che probabilmente non ha a che fare con la verità. Però chiedere scusa anche dopo tanto tempo, sì, secondo me riguarda questa decisione che ho preso. E visto che oggi lo farò, oggi chiederò scusa a un mio compagno di classe a cui di fatto non ne ho fatta una anni fa, vorrei che lo faceste anche voi. 800 24 00 24 349 238 6666. Pensateci un secondo, anche di più di un secondo. C'è qualcuno a cui dovete chiedere scusa? L'avete fatta, anche voi, magari un anno fa, magari 10 anni fa. È strano però, quando passa più tempo, è meglio. C'è una sensazione strana, è come che c'hai più modo di vedere le cose da lontano, ma soprattutto hai più modo di spiegare, di capire perché hai fatto quella cosa. 800 24 00 24, 349 238 6666. Avete due possibilità oggi. Una è quella di usare il numero di telefono di Radio 24 per chiedere scusa, anche dopo tanti anni. L'altra è semplicemente di prendere coraggio, raccontare a chi dovete chiedere scusa e magari poi farlo. 800 24 00 24. Sapete qual è la domanda più frequente che ognuno di noi fa e sente ogni giorno? La domanda è: dove sei? Fino a qualche tempo fa era: come stai? Adesso invece è: ciao, dove sei? Quando il telefono era solo fisso non aveva senso chiederlo, no? Oggi invece, appena si risponde al cellulare, è sempre la prima domanda, seguita poi da come stai, ovviamente. Sembrano due domande diverse, in realtà però hanno un unico scopo: rompere il ghiaccio. Usare una frase rituale prima di dire quello che è veramente importante. Oggi è il 22 di settembre e inizia l'autunno. L'autunno secondo me è una stagione bistrattata, forse perché ricorda l'infanzia, all'inizio delle scuole, o forse perché in città lo si percepisce poco, però l'autunno è una delle mie stagioni preferite. Ecco perché stamattina sono venuto al lavoro a piedi. Da casa di Simona ci metto 25 minuti per arrivare in radio. L'anno scorso, insieme a tutte le cose di cui mi sono liberato, ho venduto anche la macchina, la Vespa e la bicicletta. Se avrei potuto prendere i mezzi, però ho preferito venire a piedi. Milano è una città che si nasconde. In auto non te ne accorgi, però se ci cammini attraverso, ogni tanto, spuntano degli angoli che ti sorprendono. Per la luce, per i colori, per le forme dei palazzi. Al punto che quasi ti viene da dire: toh, guarda che bello, non sembra neanche di stare a Milano. Perché questa è l'unica città che fa della sua negazione un punto di forza. Insomma, mentre ero per strada ho ricevuto 3 telefonate, 2 da amici e 1 da mia mamma. Tutti e 3, la prima cosa che mi hanno chiesto è stata: dove sei? Alla prima ho risposto che ero appena uscito di casa, alla seconda che ero per strada. Alla terza invece ho preso sul serio la domanda e a mia mamma ho cominciato a dire che ero sul Naviglio Pavese, che l'acqua era sorprendentemente limpida, che nell'aria c'era profumo di brioche, che mi sentivo leggero e che un po' mi dispiaceva che io e lei non riuscissimo più a dirci certe cose, ma che ero felice di aver deciso di dire sempre solo quello che pensavo. Ecco mamma, io sono qui. E tu? Dove sei? Mia mamma è rimasta un po' spiazzata, poi ha detto che stava andando al supermercato e ci siamo salutati. Ho fatto gli ultimi 3 isolati verso la radio camminando sulla parte assolata del marciapiede. a meno che non sia mezzogiorno in punto, anche in autunno, nelle giornate di sole, in qualsiasi città del mondo ci si trovi, c'è sempre una parte di strada all'ombra e una al sole. Quello di oggi è tiepido, però stranamente a Milano oggi c'è un po' di vento. Capita di rado, però quando capita fa uno strano effetto ai milanesi. Non è come quando piove o c'è la nebbia. Quando c'è vento in questa città le persone sono più stupite che infastidite. Perché quando l'aria si muove sembra che tutto possa accadere. Sembra che si potrebbe fare qualsiasi cosa, essere in qualsiasi luogo, anche se non ti muovi da dove sei. Spring has thought, you watch the summer going by. We are warm and slowly, our hearts left out in the sun. The foxes they will show us that of Trundle is done. Oggi è il 22 di settembre e domani inizia l'autunno. Ieri però, ieri era il 21 ovviamente, e il 21 di settembre per me è sempre stato un giorno strano. Un giorno che non ho mai capito se era bello oppure no. Cioè, da un lato era una piccola festa, perché è il mio onomastico, quindi fino ai 10 anni in casa lo si festeggiava. Ancora adesso l'onomastico mi piace, perché non è come le feste comandate o come il compleanno, che più o meno, se sei amico o se sei intimo, se lo ricordano tutti. No, il mio onomastico lo conoscono solo le persone che mi stanno vicino da sempre, da quando lo festeggiavo. Sono i miei genitori, mia nonna e mia sorella. Sì, magari qualcuno che si chiama come me o che per caso se ne accorge, però quando il 21 settembre suona il telefono, so che è qualcuno di famiglia. Ecco perché ieri, il 21 di settembre, da una parte mi piace perché sarà di piccola festa, dall'altra però questo era il giorno in cui spesso cominciava la scuola. È il primo giorno di scuola, è bello solo quando ne parli al passato. E quando penso ai miei primi giorni di scuola nel passato, me ne viene in mente uno, nitidamente. Avevo 10 anni ed era il primo giorno di scuola. La prima volta che il mio coraggio è stato messo alla prova. Era l'anno della quinta, l'ultimo, quello che ancora prevedeva un esame finale, anche se più che un esame era un gioco per prepararti agli esami a venire. Era il 1985, mio nonno era morto da un giorno all'altro mentre noi eravamo al mare ed eravamo tornati di corsa a casa. Era stata un'estate triste e corta e l'inizio della scuola era diventato quasi un sollievo. Quel 21 di settembre era caldo come d'estate e io ero uscito di casa con i pantaloni e le maniche corte. Casa mia era a 30 metri dalla scuola elementare, quindi potevo permettermi il lusso di andarci da solo e di uscire 2 minuti prima della campanella. Avevo chiuso il cancelletto, avevo sentito una voce come di gatti che si chiamano tra di loro. Non ci avevo fatto caso ed ero andato verso la scuola, però subito ne avevo sentito un'altra e non era la voce di un gatto. Era quella di un bambino che si lamentava e piangeva. Avevo fatto qualche passo indietro e nel giardinetto vicino a casa c'erano 3 bambini. Uno che non avevo mai visto e gli altri 2 invece che conoscevo. Quello che non conoscevo piangeva mentre gli altri tiravano fuori quaderni e pastelli dal suo zaino e li sparpagliavano ovunque. Me ne rimasi a guardare senza intervenire. Io ero più grande dei 2, loro facevano la quarta. Ecco, era la prima volta che mi trovavo davanti ad una scelta di coraggio, intervenire oppure no. Mettermi in pericolo per salvare qualcun altro dal pericolo. Il bambino che non difesi aveva 6 anni, si chiamava Christian. Siamo cresciuti nello stesso oratorio, abbiamo anche giocato a calcio nella stessa squadra. Non siamo mai diventati amici e non gli ho mai raccontato di quell'episodio e nemmeno della mia codardia di quel giorno. Oggi che ci ripenso mi sembra quasi che il mio non intervenire fosse stato quasi una menzogna e quindi vorrei andare da lui a scusarmi. Non so se avete mai chiesto scusa a qualcuno per qualcosa, anche piccola, che avete o non avete combinato molti anni prima, però secondo me è una bella cosa e andrebbe fatta, anche a distanza di anni, anche oggi. Pronto? Pronto Christian? Sì. Ciao, sono Matteo Caccia. Matteo, ciao. Come stai? Sì, bene, bene. Guarda, scusami, stesso, ti disturbo? Stai lavorando? Sì, sono qua dentro nel negozio, sai, sempre il negozio. Senti, guarda, al volo, non ti disturbo perché mi ha dato il tuo numero mia sorella, gliel'ho chiesto perché avevo bisogno di farti questa telefonata veloce. Noi non ci sentiamo da una vita praticamente, da, quando giocavamo a calcio probabilmente a Romentino. Senti, ti spiego velocemente, io praticamente lavoro in radio, non so se lo sai, e adesso sto facendo un programma in cui racconto che cosa succede a me, che ho deciso di dire sempre la verità. Quindi adesso io sono in diretta, quindi lo sai anche tu. Ti spiego, l'altro giorno a me è venuto in mente che quando noi facevamo le elementari, e io facevo quarta probabilmente, tu invece facevi la prima, il primissimo giorno di scuola, quindi ti parlo Christian di quasi 30 anni fa. 29 anni fa probabilmente, andando a scuola c'erano, hai presente Monteleone, Salvatore e Banana, l'altro, adesso non so manco più se sono a Romentino, che in un angolo, ti avevo preso in un angolo e ti avevano sfilato lo zaino, insomma so che tu stavi piangendo e ti avevano dato forse due calci in culo, non lo so, non mi ricordo esattamente cosa accadde, ma tu te lo ricordi? Sì, un po' sì. Ok, niente, io ero passato di lì e avevo visto questa scena e non ero intervenuto e quindi insomma non avevo avuto il coraggio di intervenire. Sono passati degli anni, manco ce lo ricordiamo più, però io volevo semplicemente chiederti scusa per questa cosa qua, tutto qua. Niente, solo questo Christian, so che è strano però volevo, volevo togliermi questa piccola mancanza di coraggio raccontandotela. Ma va bene. Tu stai bene per il resto? Tutto a posto? Sei sposato, roba del genere? Ma guarda, ma passa qua qualche volta, va così bene. Ti racconto. Ma tu scusami, tu lavori al fruttivendolo di tuo padre, lì dietro la piazza? Sempre di mio papà, sì. Va bene, sì, ok. Tu invece se ti capita ascoltami allora, Radio 24. Ah, va bene, ok. Christian, okay. Ti abbraccio, grazie ancora. Grazie a te, ciao. Ciao, alla prossima, ciao. So I'll wait for you. Io dovrei chiedere scusa alla mia prima ragazza da 10 anni, anche una volta trovata su Facebook non l'ho mai detto che l'ho lasciata per due punti, assolutamente nessun motivo. E lei ha sofferto un sacco. Luca, ciao, come stai? Io non lo chiedo mai perché non sono il medico della persona a cui lo chiedo, preferisco chiedere ciao come ti senti, Claudio, però... un po' di sottigliezza. Poi mi dicono gli esperti di My Name is Earl va in onda su Italia 1 e va bene. My Name is Earl ha il biglietto lui ha il biglietto vincente della lotteria e lo perde nell'incidente e poi capisce il karma. E va bene, mia piccola Cree invece, messaggi di scusa. Ti chiedo scusa per tutto quello che ho fatto e per quanto ho fatto soffrire. Scusami ancora. Tuo anche se non lo sarò mai più. E Ale è qui proprio 800240024 oppure 349-238-6666. Ci deve essere sicuramente una spiegazione logica alla tua demenza. Guarda, sono qui. 800240024. Dopo la borsa, se vuoi, ne parliamo. Io sono qui. Nella foto c'è un letto in primo piano. È un letto coperto con un piumone bianco, pare molto soffice. È chiaramente la stanza di un albergo. Il letto è proprio nella parte bassa della foto, però tutto il corpo della foto è centrato su questo bagno avveniristico e direi con mobili di design tutto in cristallo. C'è un antibagno con il lavabo in cristallo a forma di conchiglia, uno specchio contornato da luci incastonate nel mogano, immagino. E poi c'è una doccia, anche questa di quelle che ti lava parti del corpo che nemmeno sai di avere. E tra il letto e il cristallo che divide il bagno dal resto della stanza c'è un comodino con una luce, anche quella disegnata da qualche strano designer. E poi credo che sia una sorta di accoglienza di qualche albergo, probabilmente del nord Europa, con 3 mele verdi sul comodino. Quindi credo che sia qualcuno che viaggia per lavoro, probabilmente, più che per vacanza. perché la sensazione è proprio quella di una stanza che è tenuta in ordine con l'ordine di chi si ferma per poco tempo, ci passa giusto per dormire e poi ha cose da fare. Ed è strano, ma anche se si vede solo un angolo della stanza, ha la setticità e lo splendore delle stanze d'albergo moderne, che non hanno carattere, però sono comode. L'autore della foto è Emanuele e il titolo della foto è Frankfurt, Hotel Room, Bath Door Made with Glass, porta del bagno fatta di vetro. Emanuele, io sono qui. Si chiama Voi Dove Siete, questa piccola operazione che è cominciata su Facebook e che consiste semplicemente nel scattare una foto del posto in cui vi trovate in questo momento, nel momento in cui scattate la foto per lo più, o anche questo, alle 16.37. Scattate la foto della vostra scrivania o del vostro posto di lavoro o della vostra stanza da letto o della vostra auto, di vostra figlia anche, vale. Qualcuno ha mandato una foto di se stesso in vacanza perché magari con la testa è ancora lì. Semplicemente sto cercando di tracciare una mappa per capire che io sono qui e questo è facile da capire, sono le 16.37, sono in via Monterosa 91, Radio 24. E voi invece dove siete? Voi scattate una foto e la caricate sul profilo Facebook che è Matteo Caccia, io sono qui. Mi scrivete, mi raccomando, chi siete, dove siete, cioè la descrizione della foto e il vostro nome. Ogni giorno racconto una foto e quella foto è pubblicata sul sito di Radio 24, alla pagina Io sono qui. 800 24 0024 349 238 6666. Ringrazio innanzitutto chi mi scrive che l'autunno comincia il 23 di settembre e non il 21 né il 22. Vittoria, quindi anche tu ti pigli gli insulti, visto che addirittura uno scriveva dite al conduttore, nemmeno capito perché me lo dite voi, dite al conduttore che è il 23, non il 22. Bene, grazie mille. Ma c'è qualcuno che deve chiedere scusa e lo fa via SMS in questo caso. Ciao Matteo, anch'io decido di dire la verità ad un'amica sul suo regalo di nozze, le mie, ma lei è sparita. Ah no, questa non è per chiedere scusa. Cosa le avrei detto sul regalo di nozze, Elisa? Volevo chiedere scusa a me stessa per non essermi impegnata abbastanza per ottenere quello che desideravo. Anche se troppo tardi, scusa nonna. Forse dovrei chiedere scusa a Luca, il mio ex ragazzo. L'ho lasciato anni fa. Ho trovato mille motivi, mille scusanti, ma forse il vero motivo non c'è, è sospeso, manca un pezzo dell'SMS. Aspetta un attimo che facciamo un refresh. No, non è ancora arrivato, ma il vero motivo? Puntini, puntini. Ti prego, mandaci il vero motivo. 349-238-6666. E poi questo messaggio su Facebook, prima di prendere le telefonate, che chiaramente appartiene al gruppo Ascoltatori Filosofi. Luigi scrive: chiedere scusa è segno di libertà e onore, non è da tutti. Se quella persona che 2 anni fa mi chiedesse scusa, forse oggi potrei essere una persona migliore. 800 24 0024. Andiamo a Pavia da Daniele. Pronto Daniele? Ciao Matteo. Come va? Tutto bene, tu? Io bene. Grazie per l'opportunità. Ma quale? Quella Niente, di farti parlare? È successo che mi sono innamorato della ragazza di un mio caro amico d'infanzia. Sì, ma che frequenti? No, io praticamente poi alla fine non ho fatto nulla. Scusami, lui lo frequentavi ancora, il tuo amico d'infanzia? Sì, lo frequentavo ancora. Io in quel momento sono stato zitto e ho tenuto la cosa per me. Poi quando un giorno si sono lasciati, io a distanza di mesi bevevo una birra con lui e diciamo gli ho svelato il tutto. Lui al momento mi ha detto, ma anche ringraziato, io mi ha detto di stare tranquillo, però poi da quel giorno c'è stata sempre più freddezza e pian piano i rapporti sono un po' interrotti. Ma Daniele, ma scusami, ma tu però con lei non avevi fatto nulla? No, io ho chiesto scusa alla fine per una cosa che non ho neanche fatto, era una cosa diciamo di pensiero. Appunto, mi sembra quasi, sei più realista però, del re. Boh, forse, non lo so, è stato sempre più freddo con me, quindi pian piano ci siamo sentiti sempre meno. E... Vabbè, magari, scusami Daniele, la sensazione è che sia lui a dover chiedere scusa a te, così a naso. Meno male. Ti ringrazio però, buona giornata, ciao Daniele. Grazie, ciao Matteo. Ciao, alla prossima. Andiamo a Trento da Michael? Ciao, pronto? Pronto? Sei Michael? Pronto, sei Michael o Michael? No, io mi chiamo Malcolm. Ah, Malcolm! Perfetto, Malcolm, allora esatto. È Vittoria. Scusami, Malcolm. Da dove arriva Malcolm? È un nome inglese. Siccome sono mezzo tedesco e mezzo italiano, i miei genitori, per non fare torto a nessuno, mi hanno dato un nome inglese. Non è male la via di mezzo per evitare sul Tirol Volkspartei. Senti, esatto, Malcolm, esatto. Tu che cosa fai nella vita? Io faccio restauratore, quindi ho l'opportunità di sentirvi sempre per radio, perché lavorando ho la radio, posso tenere la radio accesa. Ma cosa restauri? Adesso sono in una chiesa, sto restaurando l'altare maggiore della chiesa, praticamente. Di quale chiesa? Qui ad Arco, vicino a Riva del Garda. Che è certo, certo, come no, Arco di Trento. Ma, esatto, esatto. E quindi tu l'ascolti con le cuffie, la radio? No, no, l'ascolto così in vivo. Cioè, tu porti Radio 24 all'interno della chiesa? Sì, esatto, esatto, esatto. Benissimo, è un gesto quasi ecumenico, direi, come gesto. Esatto, esatto. Malcolm, tu a chi è che devi chiedere scusa? O chi l'hai fatto? Io ho già chiesto scusa al mio professore di matematica delle superiori, quando frequentavo l'istituto d'arte, appunto, e mi è successo di chiedergli scusa dopo 15 anni che non andavo più a scuola, ovviamente. E un giorno l'ho incontrato in città e mi sono sentito in dovere di fermarlo, di salutarlo ovviamente e chiedergli anche scusa per il mio comportamento, visto che nei 2 anni che lui ha tentato di insegnarmi qualcosa mi sono sempre comportato come, in maniera... E com'è andato quel momento poi? È stato bellissimo, devo dire la verità, proprio splendido, perché all'inizio c'era un attimo di imbarazzo, nel senso che siccome ero veramente un pessimo studente, solo in matematica, per fortuna. Per allora, il resto poi, per il resto andava sì, tutto bene. Un po' così, sai, come dire. Un po' strano. Malcolm, scusami un secondo, visto che mi diverte capire dove siete voi, mi descrivi esattamente che cosa hai intorno in questo momento nella chiesa, velocemente? Intorno, io sono all'interno della chiesa adesso, aspetta che entro perché sono uscito un attimo, adesso non so, senti il rimbombo. Un po' sì, ma quanto è grande allora, più o meno la chiesa? La chiesa sarà lunga circa 35-40 metri, insomma. Ed è tutta da restaurare? Principale. No, devo restaurare solo l'altare maggiore praticamente. Ma che è fatto cioè, la parte finale, l'altare è quello dove praticamente viene celebrata la messa. Che è fatto in legno? Sono tutti i fedeli. È fatto in legno. Ok, Malcolm, ti ringrazio moltissimo che prendo qualche altra telefonata. Ciao e buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, alla prossima. Andiamo in provincia di Cremona, perché Angelo credo che lui debba dire qualcosa a me, giusto Angelo? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? È abbastanza bene, scusa, ho la voce un pochettino rauca, ma per il resto va tutto ok. Figurati, dimmi tutto. No, tu lo sai che mi devi chiedere scuse con me a tanti? Cioè? Quando eri smemorato. Ah, ti ricordi quando eri lo smemorato? Come no, certo, sarebbe facile dirti che non me lo ricordo, ma ovviamente me lo ricordo. Quindi parliamo di una cosa accaduta 2 anni fa su un'altra radio in cui io raccontavo Fai le ricerche che mi sono fatto in internet per capire la tua malattia presunta tale, certo. E se esisteva veramente, ma sai che per qualche puntata ci ho anche creduto? Beh, quindi vuol dire che funzionava, perché vedi, il punto è quello, Angelo, io te lo chiederei anche scusa, però in realtà in quella costruzione, nella costruzione di quel programma radiofonico, che sottolineo, era un programma radiofonico, c'era un finale che andava sotto la data del 31 luglio 2009, che diciamo risolveva tutta la questione. Vedi, mi sono perso il finale, non ho la costanza di arrivare. Lo so, Angelo, tu cosa fai nella vita, Angelo? Niente, giro per clienti e cerco di... accaparrarmi il più tanto possibile e rubare alla concorrenza, quello che si fa. Dove sei in questo momento, Angelo? In questo momento sono tra Cremona e Lodi. Sei in macchina? Sì, però fermo, tranquillo. Bravo. Continua il tuo viaggio, allora fai buon viaggio. Angelo, grazie mille. Va bene, ciao, alla prossima, stai bene. Ciao, Matteo, ciao, ciao, ciao. Grazie Vittoria che mi dice che Cristina Chiabotto è di Moncaglieri, per essere precisi, perché oggi conta quello. Quindi, grazie a lei, quindi grazie a Paolino Corleori, a Tiziano Bonini e Alessandro Genovesi. Oggi ho fatto diverse cose come al solito, mi sono svegliato molto presto quest'oggi. Ho aiutato Simone a fare una lavatrice, ho ascoltato ossessivamente un pezzo dei Noah and the Whale, ma soprattutto ho chiesto scusa ad un vecchio compagno di classe. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?